fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Eccoci qui, buonasera a tutti, siamo tornati live, oppure ci state ascoltando live per la prima volta, chi lo sa. Quello che è certo è che siamo sulle frequenze di Risto Radio Convento, la web radio del locale ovviamente Convento di Lonato del Garda. Buonasera a tutti da Master Nick, come ci piace dire, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio o buonanotte, perché non sappiamo in che momento ci state ascoltando. Quello che è certo invece è che siamo in una buona compagnia, siamo in compagnia di quattro ragazzi. Una ha deciso di non far parte dell'intervista perché probabilmente ha degli scheletri nell'armadio che non vuole rivelare, ha delle cose nascoste che non ci vuole dire, ma quello che conta, quello che è importante è che abbiamo con noi la protagonista di questa serata, si chiama Chiara, viene da Mantova e mi hanno detto che si sposa, giusto? Esatto. Ciao Chiara, benvenuta. Ciao. Allora, intanto, Mantova città o Mantova Interland dintorni? No, Mantova città. Ah, Mantova città, quindi ci puoi dire come si sta percependo la bike in arena, che è una delle cose di cui si parla di più in questo momento. In realtà non Anzi, facciamo così. Andata. Però fai la giornalista di turno, la mantovana di turno, spiega a chi non è del luogo cos'è questa bike in arena. In realtà io sono nata a Mantova, poi mi sono trasferita fuori per stai già trovando scuse, quindi. E sono ritornata a Mantova post-Covid. Al momento non abbiamo biciclette. Quindi no. La difficoltà è quella. Ma sì, siamo andati in qualche negozio, solo che sono andata tutta a ruba. Immaginavo. Però esatto, spiega di cosa si tratta che... E quindi non abbiamo ancora avuto la possibilità di andare a provare la bikina. Sì, che dicevo, faccio io allora. Che praticamente è una sorta di drive-in, questo è il nome. Però invece di raggiungerla con la macchina o di guardare un film, un concerto, un evento particolare, dalla macchina si fa con la propria bicicletta, quindi a due ruote, col parcheggio per se stessi e anche ognuno la sua sedia. Quindi è un'iniziativa green molto particolare che sta facendo parlare. Dovevi inaugurare stasera, ma caso mal tempo è stata rinviata a domani, ci siamo capiti, a domenica, esatto. Dove dovrebbe esibirsi Nicolò Fabi, se non vado errato, esatto. Bellissimo. Però non parliamo di questo, parliamo della tua festa, del motivo della tua festa, quindi dici qual è? Mi sposo. Ti sposi quando? Mi sposo il 15 agosto, causa Covid. Come causa Covid? Perché era programmato quando? Il 2 di giugno. Ah, il 2 giugno. Il 2 di giugno, è saltato tutto. E quindi abbiamo deciso di riprovare comunque a fare quest'anno. Sì? Beh, 15 agosto è una data coraggiosa, già come calendario è coraggiosa, a maggior ragione. Esatto, a maggior ragione quest'anno, perché ancora non è comunque certo che si potrà, o comunque si potrà con tutte le libertà del caso. Esatto, quindi noi ci proviamo, speriamo che vada tutto bene. Dove vi sposerete? Che a questo punto conta anche quello? A Mantova. A Mantova, quindi Lombardia, ok. Però il ricevimento sarà a Pastrengo in Veneto. Furba, vedi, ha capito tutto, no, a parte gli scherzi. Era già programmato. Sì, avevamo trovato una location che ci piaceva lì e abbiamo deciso di fare poi il ricevimento lì. Che è il famosissimo zoo di Pastrengo, giusto? Esatto. Vedi, avevo già capito, si vedeva questo bellissimo matrimonio allo zoo, tipo Madagascar. Abbiamo tanti orsi. Vedi. E come si chiama il tuo futuro marito? Andrea, molto bene. E complimenti intanto per il coraggio, perché comunque sia per la data, sia per la scelta di rischiare in questo periodo, complimenti. Grazie. E non sei sola, perché sembra Grande Fratello, ne hanno eliminata un'altra intanto nel frattempo. È rimasta l'unica, ultima baluarda. No, non è vero, le due amiche sono comunque qui fuori a immortalare con i cellulari questi momenti, ma sono ancora qui. E quindi diciamo parlare l'unica testimone, non so se anche del matrimonio, ma sicuramente di questa serata. Dorotea. La Doro. Vabbè, lei. Come? Dorotea, penso che nome... particolare. Sì, no? Particolare, quasi da libro, no? Da personaggio dei libri. E come, no, ha un motivo, un'origine che tu sappia? Il nome di mia nonna. Ah, ok. Solo che piaceva ai miei, appunto, per il nome. Sì, che era, sì. E quindi hanno deciso di darmelo, appunto, perché era particolare. Diciamo che si è un po' persa quest'usanza, alcuni ce l'hanno ancora, però sì, c'era un po' 20-30 anni fa di chiamare le figlie come le nonne. Sì, è un, cioè, no, un borsone. E ti chiami, cioè, ti chiamano Doro. Ah, Doro, io conosco una tia invece, allo stesso modo, invece no, tu hai scelto la prima parte. No, mi chiamano. Sì, sì, beh, tanto che ti fa. Cioè, l'abbiamo scelta noi. Esatto, che ti frega, uno o l'altro, esatto. Un pezzo qua. Bello, bello però, complimenti. E amica, immagino della sposa, sì, ok? Sì. Poi ci sono anche altre due, se volete presentarle. Sì, una è mia cugina, la Ila, e la Giulia è un'altra mia amica. Ok. Quindi anche nubilato intimo, non allargato. No, in realtà c'era un'altra ragazza. Beh, comunque 5, però nel senso non è quello da 15-20 persone, insomma. No. E io non ho una compagnia molto numerosa, ho tante amiche di solito singole con cui esco. C'è quello che serve avere, insomma. Sì, recuperate un po' da varie parti della mia vita, diciamo. Sì, certo, certo. E quindi non volevo fare una cosa troppo eterogenea. E ci sta. Ho radunato quelle più vicine a me, più strette. Ci sta, assolutamente, per la serata. Assolutamente sì. E la giornata. E questo abbiamento un po' Biancaneve, se lo ricorda, magari no. Magari semplicemente da Ape Maia, per esempio, no. Sì, la scelta di questo tutù giallo non è stata neanche assolutamente mia. Però lo sai, però no. Io... Aspetta, forse è a conoscenza del motivo. No, allora, io sapevo del tutù e andava bene. Giallo non lo sapevo. Sì? Ok. Vabbè, però. Per riconoscere la scelta. Ah, ok, non c'è un motivo di fondo. Non c'è un motivo di fondo, ok. No, oggi sono stata in balia loro, ogni loro scelta. Io. Beh, come tradizione, come esatto. Tradizione che sia, come tradizione che sia. E avete, approfitto anche di questo periodo, avete in programma qualche viaggio, qualche luna di miele o anche quella posticipata? Magari, saltato tutto, stiamo cercando di riorganizzarci. Ma era organizzato ed è saltato quindi? Era organizzata in Australia. Ah, è tosta quindi. E on the road. Certo. Quindi sì, difficile da sistemare. Parchi, città. Sì, sì, sì, in questo momento giustamente è difficile da sistemare i pezzi. Meglio così a questo punto, no? Meglio così che almeno. Ma io avrei preferito andare in Australia. No, chiaro, dico, meglio così che c'è tempo di riorganizzarla e farla nel modo giusto, ecco, piuttosto che essere col freno a mano tirato, usando una metafora. No, volevi andare comunque. Io sarei andata, però. Anche in queste condizioni, quindi. Sì, però là non permettono. Certo, no, assolutamente, assolutamente. Viaggio che sognate da tempo o è stato deciso? No, così? Viaggio che sogniamo da tempo e avevamo aspettato proprio il matrimonio per andare. Vabbè, approfittando di ferie prolungate, visto che l'Australia non è proprio il dietro l'angolo e giustamente ha bisogno di tempo per essere visitata nel modo giusto, perché non ci si torna neanche tutti i giorni. No. Quindi ci sta, però. Tutto riprogrammabile, importante che non abbiate perso caparre, soldi, qualcosina. Tantasso dolente. Ah, peccato, purtroppo è. Fa parte del gioco, dai. E parliamo di altre cose, ad esempio come vi siete conosciuti, da quanto state insieme. Da parecchio, perché ci siamo conosciuti che eravamo ancora alle superiori. Ah, il classico amore anche di scuola. No, in realtà eravamo scout entrambi, sì. E gruppi diversi, ci siamo conosciuti grazie a un'uscita scout organizzata tra vari gruppi. Ok. E poi ci siamo trovati e da lì è nato tutto, alti e bassi, però finalmente ci sposiamo. Vabbè, insomma, l'importante, come si dice nelle fiabe e nelle favole, che ci sia il lieto fine, che ci sia la... E poi non è ancora finita. Ecco, cos'è? No, nel senso, il matrimonio non è una fine. Ah, ok, no, il lieto fine, nel senso che tante tribolazioni comunque portano a un evento. Anche io mi aspettavo, non è ancora finita, che ne so, tipo amo un altro. No, la grande colpo di teatro alla Maria De Filippi. Infatti, cioè, no, non è ancora finita, boh, non lo so, no. Era per... Anch'io sono rimasto abbastanza. Il matrimonio è un'altra tappa sul nostro. Certo, no, il lieto fine, dicevo che hai parlato di tutti gli alti e bassi, le tribolazioni. Il lieto fine è essere arrivati invece a un evento quello felice, sì. Ecco, quello parlavo. Sicuramente è una cosa che aspettavamo e che volevamo entrambi. Quello è quello che conta. E anche il matrimonio sarà intimo o tanti invitati? No, eravamo sul centinaio. Beh, quindi, nella media. sì, causa insomma un po' Covid che ha spazzato via qualche coppia e un po' il periodo. Davvero? Ma sai che ne ho sentite tante che... Siamo in meno. Sai che ne ho sentite tante che il Covid è stato letale non solo dal punto di vista mentale, inteso come proprio resistenza mentale, ma anche proprio affettivo, che ha tagliato tantissime coppie. Ma probabilmente... Che appena c'è stata la possibilità di separarsi, sono separati veramente. Probabilmente, non so, si è dovuti venire a fare i conti con determinate situazioni e non sempre è andata bene. Sì, o comunque, come si dice, che non è sempre rose e fiori, o comunque non è la cosa da fiaba al passare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 insieme, e questa è anche la dimostrazione che, obbligati a farlo, tanti evidentemente non hanno la forza o la capacità di resisterne, no? Magari si rendono conto che non era quello che volevano. Esatto, esatto, quindi in alcuni casi, ecco, è servito anche a chiarire tante situazioni e a renderle, o meglio, farle venire magari alla luce, esatto, farle venire a galla. Cosa fate nella vita di bello? Avete qualche hobby, qualche passione importante? Andare in moto. Davvero? Sei una centaura? Io ho appena preso la patente, quindi sono ancora acerba. Il mio amoroso invece è stato un motociclista per anni e qualche anno fa è passato al sidecar. Al sidecar? Quindi andiamo in giro. Ma serve un'altra patente per il sidecar? No, sempre la cos'è? A illimitata. E giriamo, lui guida, io zavorrino. E tu fai il bassotto? Quando tipo... non prendo sulla moto, e nel sidecar ci mettiamo Grisù, che è il nostro cagnolone. Sì, davvero? Ma decappottabile o lo coprite? No, sta fuori, a lui piace molto prendere aria, poi quando arriva a una certa velocità... ci pensa lui ad andare da solo coperta. È un grande, vedi? Lo copriamo quando piove. Beh, quello assolutamente, però magari, esatto, lo proteggevate dall'aria, invece no, se gli piace. No, a lui piace un sacco. Se gli piace. Cerca sempre di stare su. Sì. Sai che vorrei quasi sapere quando... foto? Esatto, vorrei quasi sapere quando farete la prossima uscita per venirvi a vedere, perché un'immagine interessante del... Abbiamo una pagina Facebook di un ragazzo. Un motociclista a quattro zampe. Ah, bello! No, devi pubblicizzarla, devi farlo sapere, perché l'immagine è interessante. Ragazza in moto, ragazzo in moto col sidecar e il cagnolino dentro. Sì. Cui... Cagnolone. Ah, cagnolone, vabbè, giustamente, se ci stai tu. 35 kg. Se ci stai tu, evidentemente deve essere di una taglia importante. Vi dà problemi portarlo in giro? Vi fanno danno qualche limitazione in generale? Non sto parlando di questo periodo. Ma secondo me sono le limitazioni che si ha quando si gira con un cane, quindi c'è da cercare strutture che accettino ovviamente, certo, gli animali e i cani. No, dicevo, è complicato o riuscite a gestirvi abbastanza tranquillamente? Riusciamo. O è una su 10, per dire? Ma riusciamo, però non è come se andassimo in giro solo io e lui. Ok. Però penso che questo non sia un problema dato dalla moto o dal sidecar, ma in generale di andare in giro con i cani e gli animali. Certo. No, parlavo anche proprio della taglia, visto che hai detto che è un, insomma, un bel... È un labrador. Un bel popò di cane. Alcuni so anche che al di là del sino animali fanno anche distinzione in base... non alla taglia. Sì, alla taglia, al peso soprattutto, ecco, era per capire quello. Sì, sì, quando leggiamo accettiamo animali di piccola taglia... Vedi, escludete già a priori. Beh, comunque si sta ampliando un po' la mentalità o siamo ancora un po' chiusi? Secondo me sì. E poi io è il primo cane che ho, quindi non posso dire di avere da sta grande esperienza, però certo, diciamo che tante strutture le troviamo. E in realtà l'anno scorso abbiamo fatto un viaggio tra Spagna e Portogallo, abbiamo avuto qualche problema che invece in Italia non abbiamo avuto. Sì? Vedi che non te lo aspetti magari. No, non accettavano i cani neanche negli spazi esterni, cosa che invece in Italia non succede. No, bene, vedi che a volte ci crediamo. Positivo. Ci crediamo noi più indietro rispetto ad altri, invece ci sorprendono, ed è bello che ci facciano sorprendere anche il nostro piccolo paese. Vuoi mandare un messaggio in chiusura? Vuoi dire qualcosa a qualcuno? Ad Andrea, non vedo l'ora di sposarti. Bello, vedi, semplice e efficace. Vuoi anche tu dire qualcosa in rappresentanza di amica delle amiche della sposa? Vi auguro il meglio nella vostra vita. Grazie Doro. Vedi, anche qui, semplice ma incisivo, quello che conta. Va bene, allora grazie mille ragazze. Grazie a te. di esserci venuti a trovare e a scoprire, e in bocca al lupo per il tuo matrimonio e per tutti i vostri progetti. E a questo punto ti seguiremo anche su Facebook, su questa, sulla pagina, ricordaci ancora come si chiama? Motociclista quattro zampe. Dai, un motociclista quattro zampe, curioseremo molto volentieri. Grazie ragazze, alla prossima e buona continuazione di serata. Ciao! Ciao!